Capuano e Pierluigi Pardo. Oh, 800 24 00 24, Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Luisa Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi siamo qui in onda col cuore a Berlino, ovviamente, a un'altra tragedia che ha colpito l'Europa tragicamente in queste ore, che ci troviamo purtroppo a raccontare. Ha colpito anche il mondo dello sport, perché lo sport fa parte di quella grande società che siamo noi, poi, quindi è difficile tenere le cose separate. Lo sport è certamente uno dei, speriamo non un bersaglio, anche se recentemente sappiamo che per esempio a Istanbul c'è stato un attentato proprio nelle immediate vicinanze dello stadio. E lo sport ovviamente è un grande fenomeno culturale, un grande fenomeno popolare, quindi è ovvio che venga toccato, probabilmente più che altri, che altre realtà, insomma, nel senso che di sport parlano tutti ed è veramente una cosa che succede tra la gente, quindi da questo punto di vista ha una forza assoluta, così come purtroppo hanno forza i fatti di ieri, che sono, sì, ovviamente i fatti, le immagini, insomma, che rimbalzano da ieri sera. Radio 24 continua ovviamente a seguire la cronaca da Berlino, non solo, insomma, di tutte le triste vicende di queste ultime ore. Noi siamo qui disponibili per qualsiasi aggiornamento a dare la linea alla redazione. Intanto, bollettino verso la finale di Supercoppa Doha, anche se in realtà questa sera è campionato, perché c'è Atalanta-Empoli, oggi è la vigilia di Inter-Lazio, partita che Simone Inzaghi ha definito uno scontro diretto. Poi giovedì ci sarà tutto il resto. In realtà stiamo aspettando la finale di Supercoppa Doha. Dicevo, notizia dell'ultimo minuto: il Milan parte domani, aereo in ritardo di 1:30 bloccato a Londra, almeno così si dice, e quindi il Milan parte domani alle 15. Saluto Max Nerozzi, ciao Max. Ciao, come sei? Voi? È al caldo lui. Ah, ecco. Sono a Doha. Sei a Doha, non dirlo così, dillo con più entusiasmo. Temperatura? Stamattina c'erano 24 gradi, ecco. 25. Senti, e perché noi dovremmo volerti comunque bene, al di là del fatto che ti vogliamo bene a prescindere, ma perché nonostante perché dove stai tu mangia meglio. Ah, vabbè. Ah, ecco. Okay. Pescettino. Quindi ti colpisco dove sei vulnerabile. Lo so, ma dico, pescettino lo sapranno fare sti ragazzi, no? No, benissimo. No, senti, dai, com'è lì dal punto di vista strutture, guarda, ambiente? Oggi c'è una pagina meravigliosa sulla stampa, sì. che ha scritto proprio Max Nerozzi a proposito guarda, del Qatar. Ci siamo già venuti 2 anni fa, nel 2014, Juve-Napoli, però ogni volta che ci vieni è una roba pazzesca, nel senso che ci sono cantieri ovunque, corso di scongrattacieli ovunque, stanno edificando una città che non esiste neanche sulle mappe adesso, che è Usai City, che sarà a 40 km a nord di Doha, e stanziamento previsto 45 miliardi di dollari, miliardi, sì. Cioè non è un refugio, e insomma è una roba pazzesca, non so dove arriveranno, non so quale sarà la sostenibilità di questo sforzo, perché qui fra i grattacieli ci sono quelli già finiti ovviamente, con alberghi, centri commerciali, di fianco i cantieri, e quindi c'è ovviamente la solita figura, che non è retorica ma è vero, con il Ferrari piuttosto che il macchinone, e di fianco gli operai che sono al 100% immigrati da Nepal, Pakistan, Filippine, insomma. Sì, anche nella nostra società diciamo la sperequazione è abbastanza forte, però certamente immagino che in quei posti lì magari, ecco, si senta di più, no, la differenza fra guarda, chi è... Pier, sì, assolutamente, perché ti dico qua, tu prima giustamente parli del clima, qua in estate è invivibile fuori perché si va oltre i 50 gradi, e quindi di questa stagione i cantieri sostanzialmente vanno 24 su 24. Io ieri sera vedevo ce n'erano due qua a West Bay, a Doha, che è la zona dei grattacieli, quella dove ci sono i centri commerciali, i centri finanziari, e lavorano tutta notte. Leggendo la tua pagina sulla stampa, un po' di filosofia, un po' di Pelé, Qatar nella fabbrica dei campioni, che poi è il viaggio in questa accademia dove il Qatar cerca di formare calciatori per il mondiale del 2022, che ospita gli altri, da quello che abbiamo capito cerca di comprarseli in giro per il mondo. Mi è venuto in mente quello che ci aveva detto Marcello Lippi qualche anno fa, raccontandoci, al di là della sua avventura in Cina, lo stupore per queste immense accademie con decine, centinaia, migliaia di ragazzini portati al calcio. Solo che qua sono indietro ancora. sai, sono indietro anche perché i catarini sono 360.000 su una popolazione che adesso è sui 2,5 milioni di residenti, ma gli altri non sono cittadini del Qatar. E tu giustamente ricordavi che cercano di prenderli in giro per il mondo, un po' è vero, un po' resta vero, da quel che ho capito ieri, sono facendo due chiacchiere anche vedendo, un po' meno però degli anni passati, cioè loro avevano provato a naturalizzare qualsiasi persona che si rendeva disponibile, ricorderai anche dei brasiliani che giocavano in Bundesliga, ma non è così semplice e quindi stanno cercando un'altra via, che è quella sì di portare stranieri qua, soprattutto da Africa e Sud America, ma anche per alzare il livello di competitività della scuola e degli allenamenti. Noi in realtà punterebbero a tirare su una generazione di bambini catarini per il 2022. Io penso sarà molto molto difficile, hanno tutti istruttori europei, le strutture sono pazzesche, come ricordavi tu, c'è qualsiasi cosa, c'è un centro medico della FIFA, c'è un ospedale dentro, ci sono laboratori, proprio robe che ce ne sogniamo anche noi in Italia, però insomma la missione mi sembra molto molto complicata. È abbastanza divertente quello che dice Nerozzi, perché è anche intrigante, perché insomma si può costruire un'intera città nuova con 45 miliardi di dollari nel giro magari di qualche mese, dove non c'è nulla, ma non si può costruire una generazione di giocatori. Questo, cioè, in qualche modo ci racconta la forza della cultura, no? Che è una cosa che tante volte noi ci sentiamo addosso, forse non ce la sentiamo addosso come dovremmo, magari ci porta anche a dormire sulla nostra gloria passata e quindi a essere un paese un po' sfigato da mille punti di vista, però è esattamente questo, no? Cioè, e nel calcio anche si vede quell'elemento di tradizione, di abitudine, di cultura calcistica, è abbastanza difficile da ricostruire. Provano a ricostruirlo attraverso questa partita che... Interessa o no? Dai! Pier, ecco, secondo me la parte del tuo discorso è questa: oltre che il talento, è molto difficile costruire una tradizione. Certo. Domanda, interessa? Fino adesso niente. Nulla. Io due giorni che sono andato in giro ti faccio un esempio: il 2 gennaio qua a Doha si gioca il primo torneo ATP del 2017 e i centri commerciali, le strade sono pieni dei faccioni di Djokovic piuttosto che di Murray, certo, di Tsonga. Higuain non si vede invece? Non ancora, ha più tradizione perché qui gioca dal 93, sono, certo, 25 anni che fanno l'Open di Doha e il tennis va molto, diciamo che è molto, molto in tra i sheikhi. E il calcio un po' meno. Altra curiosità, per esempio, che una partita non la dà Bein Sport, che in realtà è la TV del Qatar, ma la dà Abu Dhabi TV, che aveva comprato i diritti per la Coppa Italia e per la Supercoppa. Non è la descrizione di un paese più, diciamo, invasato col calcio, ecco, questa è l'altra particolarità. Conta che si gioca allo stadio due anni fa, che ha 13.000 posti, già esaurito. A voi piace la Supercoppa lì? Ne parliamo dopo il traffico. Ne parliamo dopo il traffico. Ovviamente anche 800 24 00 24. Lasciamo Max che mandiamo in spiaggia. Ciao Max. No, vado a lavorare. Ma a lavorare. Max, a lavorare. A noi piace immaginarti così. Traffico. Si lavora bene in spiaggia poi. Sì. Tutti convocati. Tutti convocati. Io continuo a dire, non ci hanno mai messo sotto, e qualcuno scrive non abbiamo mai perso, sembro ubriaco. In verità, quando dico non ci hanno mai messo sotto, vuol dire che come gioco non ci hanno mai messo sotto. Ribadiamo loro i punteggi onde evitare che domani ancora venga fuori qualcosa di incredibile, perché sono 3-1, leggo cose davvero che non so, si vede che non riesco più a spiegarmi. In realtà il primo trofeo della stagione è in palio. Sì, in palio. E, come Juventus, anche questa è la storia che lo dice, si partecipa sempre per vincere. Anche noi andiamo per vincere. Certo, c'è l'imprevedibilità con una partita secca. È una partita secca, devi avere anche quel pizzico di circostanza favorevole che si definisce fortuna. Però io sono consapevole che la squadra è in piena forma, ha voglia di vincere, ha la motivazione forte, per cui sono molto ottimista. A me la finale a Doha, in Canada, dove l'hanno giocata mille altre volte, piace tantissimo, in Cina, te lo dico. Ah, A me piace, insomma, io non voglio fare quello. Piace tantissimo. Ma, insomma, a me piacerebbe, egoisticamente, mi piacerebbe di più vederla a Firenze o a Bologna o a Roma o a Napoli. Però credo che possa essere utile, insomma. Cioè, comunque c'è un bacino televisivo, comunque arrivano dei soldi, comunque in qualche modo si fanno proseliti. Magari fra 10 anni ci saranno le facce anche dei giocatori delle due, sì, squadre della Supercoppa, e non soltanto Djokovic. Quella di Djokovic. Quindi alla fine lo considero un investimento e, insomma, faccio fatica a essere negativo su questa roba qui. Ma poi dobbiamo abituarci, insomma, noi, sì, in questi minuti la Supercoppa si può fare, dai. In questi minuti, cioè, l'Inter annuncia la sponsorizzazione del centro, sì, della Pinetina, di Appiano Gentile, Angelo Moratti, al nome, insomma, del primo grande presidente della grande Inter. E io lo so che ci sono tanti, anche tra i tifosi, che storcono il naso, dicono: ma la tradizione, Angelo Moratti, come si fa a mettere il nome di uno sponsor? E magari capiterà anche al primo stadio italiano cui verrà messo il nome di uno sponsor. Però, amici miei, o ci abituiamo che così funziona, oppure... Perché la Dacia Arena e il MyPay Stadium... Però ci sono stati problemi, ad esempio, a Udine. Sì, perché sì, sono stati giustamente problemi. Tutto legato al ricordo del terremoto degli anni 70. C'è stato dibattito, ci sono state discussioni, anche legittime. Però o tu vai nel futuro... Sono d'accordo e credo che poi alla fine come fai sbagli, no? Nel senso che, cioè, il dibattito si è aperto, su quello non ci sono assolutamente dubbi. Aspettate che chiedo anche cosa ne pensa Giancarlo Marocchi. Ciao Giancarlo. Ciao a tutti. Bisogna vagamente inchinarsi a quello che è il business, quello è. Certo che più la porti in giro questa Supercoppa, secondo me gli toglie un minimo di importanza, perché se fosse il primo appuntamento dell'anno, prima che cominci tutto, bello fisso, si comincia da questo, pronti via, ecco che vagamente sembrerebbe più importante. Così sembra più importante solo dal punto di vista commerciale, però cioè, non, a me va bene anche così. È vero, ma questo deriva dal fatto, ovviamente, che l'estate non può giocare a Doha, ovviamente, perché ci sono 50 gradi, come ci diceva Verozzi. Si è giocato, e quindi, in Cina, ad agosto. Si è giocato anche in America. Tu chiedi a loro che vuoi 20-22 gradi, stai tranquillo che ti creano i 20-22 gradi. Certo, giusto. Ci mettono un attimo, scusa. ci mettono un secondo, attaccano il condizionatore come facciamo noi in macchina, esatto, e sono a posto. Sì, Luca scrive 349-238-6666, Spagna, Inghilterra, Germania, quei calci lì, dove la giocano in casa, è vero, però sono comunque aperti a fare tanto fuori, sì, all'estero. E poi, ragazzi, insomma, li hanno aggrediti quei mercati, noi Spagna, no. Spagna, Inghilterra e Germania oggi sono avanti a noi, l'abbiamo detto mille volte, ovviamente. No, ma guardate l'Atletico Madrid, insomma, i soci al 20% appunto. Hanno fatto lo stadio nuovo, sono cinesi, insomma, adesso no. Sì. Non facciamo i puristi a tutti i costi, ecco. No, invece a noi piace fare tutte e due le cose, cioè, quindi arrivano i soldi, vuoi fare il purista, però se non arrivano i soldi ti lamenti. A proposito invece di quello che sarà Juve-Milan, abbiamo sentito, sì, prima Gagliani dire: non fatemi fare il conto se abbiamo perso o vinto, ma la Juve non ci ha mai messo sotto. Secondo me nell'ultima vittoria del Milan la Juve aveva messo sotto il Milan, però, cioè, stiamo parlando perché dobbiamo riempire la vigilia, cioè è più bello pensare che il Milan è cresciuto, quindi non si parla più di Milan fortunato, adesso ha fatto solo un punto nelle ultime due partite, ma paradossalmente ha giocato meglio delle prime, quando vinceva sempre. E questa è una bella notizia per Gagliani, per i tifosi del Milan. E il problema del Milan è che anche la Juve sta bene in questo momento, cioè avrebbe avuto bisogno di una Juve meno in palla, e allora ecco che si poteva anche iniziare a dire: va 50-50, visto che è una gara unica. E però invece quant'è? Stanno bene 70-30? Due, sì, giù di lì, insomma, sai, siamo a quel livello lì. Forse 65-35, dai, fra il, sì, 65 e il 70, direi. Ma insomma, io credo non si debba comunque sottovalutare quello che ha fatto il Milan in questi tre mesi. Il Milan non è stato messo sotto da nessuno. No, ma anche perché quindi il Torino non si capisce perché dovrebbe essere messo fino sotto all'82esimo era in partita. La Roma comunque non ha tirato in porta molto, anzi quasi mai, però comunque non ha fatto una partita, cioè, diciamo, la Juve degli ultimi tempi non è una squadra che domina le partite senza se e senza ma. È una squadra poi molto smaliziata, la migliore di tutte, quella che trova sempre l'episodio giusto, quella che ha più cambi, quella che è più completa, quella che ha più testa, quindi è nettamente favorita. Però francamente la frase di Montella sulla Juve imbattibile l'ho trovata un po' provocatoria, nel senso che secondo me il Milan, cioè se il Milan in partita secca pensa di non potersela giocare, allora Houston abbiamo un problema, no? No, ma poi il Milan, che mi piace perché sta cambiando, sta maturando, adesso non ci sono questi 11 ragazzi con l'ansia di avere sta maglia rossonera sulle spalle, qui hanno già scollinato, e a fine partita con l'Atalanta tutti intorno all'arbitro per prenderselo con qualcuno, perché volevano con comunque anche oltre al 90esimo ribellarsi a un pareggio, quindi è una squadra che adesso ha la vittoria in testa. Questo secondo me è stato un segnale molto bello che aspettavo da tempo dai giocatori del... Sì, segnale che qualcosa cambia. Vi faccio sentire Ventura ieri a proposito della superiorità della Juve del campionato chiuso, o forse no. La Juventus quando necessita c'è, quest'anno è così, al di là che la rosa della Juventus è assolutamente, non dico superiore, ma assolutamente competitiva, quindi credo che di chiuso non c'è niente, ma di socchiuso qualcosa c'è magari. È un diplomatico nato. Vabbè, ma ha ragione. Socchiuso. Beh, ma è socchiuso, posso dirti? Sei d'accordo? Sì, ma non c'è nessuno che bussa. Ecco, quello sì, però adesso al di là delle altre che lasciamo da parte un attimo, cioè, adesso la Juve sta facendo qualcosa che va anche al di là del Milan degli invincibili, quando con Capello ne ha vinti 4 su 5 anni o 3 su 4, adesso perdo un po' i colpi, cioè, qui si alimentano, cioè questi giocatori si alimentano ogni volta e trovano motivazioni che nessun altro riuscirebbe a trovare. Cioè, io addirittura li vedo esaltarsi, darsi il 5 con Buffon quando c'è un tiro e Mandzukic devia in calcio d'angolo per gli altri, cioè si danno il 5 come se avessero fatto un gol in rovesciata dall'altra parte. Cioè, trovano delle motivazioni nelle piccole cose all'interno di una partita, cioè loro partono proprio da queste piccole cose per raggiungere grandi obiettivi. Ma gente tutta che ha già vinto 5 scudetti consecutivi, cioè non tutti, questa è la cosa più incredibile. Cioè, questa è la cosa più incredibile. Cioè, qui adesso va al di là, cioè, la società, tutti hanno creato un meccanismo, si è creato un meccanismo che si alimenta anche di piccole cose per trovare sempre nuove motivazioni. Cioè, quindi per le altre è complicato, ma non se ne viene fuori se non si inceppa la Juve. No, assolutamente. C'è chi scrive: se la Juve gioca i suoi livelli non si vede come possa vincere il Milan. Per carità, è vero, però un mese fa la Juve non ha giocato male a San Siro, ha perso. Insomma, a me piace immaginare posso dirti che la partita che sia partita, la partita secondo me più probabile è una partita che vince la Juve, ma non è che la vince 4-0. Secondo me la vince la Juve con le armi che ha in questo momento, perché se io guardo le ultime partite della Juve, a parte ovviamente Juve Dinamo Zagabria che era un allenamento, poi insomma alla fine sono partite vinte ma sofferte. Guarda, anche la finale di Coppa Italia la Juve era assolutamente superiore ed è arrivata in fondo a giocarsela. Probabilmente molto di più che oggi, molto perché più che insomma oggi. Quella è stata probabilmente la miglior partita del Milan di Brocchi, o comunque una delle migliori. E insomma la Juve l'ha vinta con la sua arma migliore, ma anche per dirti, anche la finale dell'anno prima, quella contro la Lazio, la finale di Coppa Italia, la Juve l'ha vinta rischiando tantissimo. Quindi insomma io credo che la partita secca sia oggettivamente un altro sport. Credo che debba che chiaramente la Juve sia avanti, ma è avanti secondo me ancora di più in questo tipo di partita, è avanti ancora di più per la personalità che ha, per l'abitudine che ha, per la sicurezza che ha, piuttosto che dal punto di vista tecnico. Secondo me dal punto di vista tecnico la partita è giocabile. Giancarlo, prima della borsa ti giro un messaggio. Andrea da Pinerolo: le squadre di Montella si perdono sempre nella seconda parte del campionato, secondo te si ripeterà anche al Milan? Oddio, apriamo la no, palla di vetro, ecco. Sì. Spero di no, questo è vero. Poi Montella non lo nasconde, che dice che il suo lavoro fisico è l'esatto opposto di quello di Gasperini, per esempio, ovvero allenamenti anche un po' soft e brevi. Lui va in quella direzione, i giocatori devono correre in cosa in partita, succede che delle volte ha la pressione le sue squadre, però insomma quello tante volte potrebbe essere che chi comunque gioca sempre, e qui i titolari mi sembrano vagamente fissi, i soliti 14, ecco che potrebbero non aver bisogno di tanto allenamento, quelli in panchina se ne facciano una ragione, ecco. Certo, quindi certo, non lo so come andrà a finire da questo punto di vista. Va bene, grazie Giancarlo. Grazie, ciao, a te, ciao, ciao, ciao, ciao. Ci dicono siamo sicuri che il futuro è la schiavitù, penso con riferimento agli stadi, diciamo, con i nomi dello sponsor, stadi, tutto. È il futuro, non è lo futuro. So dire. Se vuoi fare una squadra come il Real, è il futuro. O avvicinarti, sì, a sì, quell'idea. Sì. Insomma, se andiamo a vedere le partite dell'Arsenal all'Emirates, quelle del Bayern all'Allianz Arena, eccetera, eccetera, io penso che alla fine tutto aiuti, anche se il problema è che noi abbiamo perso come paese il momento migliore, nel senso che quando noi eravamo veramente i padroni del calcio negli anni 90, eravamo più forti di tutti, purtroppo il calcio non si stava globalizzando, e quando si è globalizzato è stato 15 anni dopo, e poi noi paghiamo la nostra assoluta mancanza di strutture, anche noi eravamo mentalità. Già dietro, 15 anni dopo noi eravamo già dietro. 800 24 00 24, Michele da Treviso che dice finisce 4-1 per la Juve, c'è la borsa, poi torniamo. Tutti convocati. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Quando è arrivata per la prima volta, ecco, l'idea di dimettersi? È chiaro che questi due risultati hanno fatto un po' la differenza, però poi delle cose con la società le ho volute mettere a posto già all'inizio di questa stagione. Ho parlato con la dottoressa Sensi e probabilmente non è bastato, e di conseguenza bisogna fare qualche cosa di più. E io, per fare qualche cosa di più, bisognava mi assumessi delle responsabilità, e le responsabilità che ho sono poi tutte racchiuse nel gesto che ho fatto. Should I stay or should I go? Nella Roma soprattutto non si possono fare le cose banali, per cui io in quel periodo lì ho messo molto sentimento. La mia famiglia gliel'ho un po' trasferito, tant'è che uno dei miei figli vive, è sempre vissuto a Roma. Di conseguenza io non ho mai lasciato la Roma dentro il mio sentimento, e ora risono qua, per cui sono felice. Should I stay or should I go now? Sempre ha avuto un rapporto un po' particolare Spalletti con Roma e con la Roma. Saluto Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a voi ascoltatori. Ciao, ciao, ciao. Dunque, ciao. L'ultima uscita, che non abbiamo in audio ma è stata anticipata da un'intervista di France Football, dice, però si era capito qualcosa anche in queste settimane, dice sostanzialmente Spalletti: o vinco o niente rinnovo e me ne vado. Mi aiutate a capire perché? Partirei da Vocalelli. No. No, generalmente succede il contrario, cioè che la società che ti dice se non vinci non ti rinnovo il contratto, quindi succede paradossalmente il contrario, cioè che è quello che è l'interessato che dice se non vinco me ne vado. Generalmente, ripeto, io fino a ieri pensavo che fosse l'azienda che ti paga che ti chiede dei risultati, altrimenti ti manda via, per cui non lo so quello che sta succedendo. Vedo con diciamo un po' con stupore, un po' con sorpresa che cambiano i tempi, nel senso che l'anno scorso di questi tempi Garcia fu mandato via avendo 3 punti in meno, ma essendo molto vicino alla vetta dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League appunto. E Spalletti invece è lui che ha detto un pochino le condizioni, malgrado dalla Champions League sia stato eliminato, il campionato non è che stia facendo la vita, un po' sorprendente. Certo, tu certo, Pier, che ti sei fatto? Sento un rumore. Che succede? Cosa sta succedendo? Cioè, tu cosa pensi di Spalletti, di questo rapporto particolare? Non sono io, no. L'assenza di Felipe Melo e João Mario Pioli, cioè sono assenze che si fanno sentire molto. Vabbè, non so cosa sia un mistero, è partito qualcosa. Capita, è il bello della diretta. È partito il computer, un video sul computer di Pier. No, non si capisce come è entrato nell'onda. No, sono innocente, non c'ho proprio niente. Vabbè, di aperto. Comunque, tu che idea ti sei fatto? Perché c'è anche chi dice che possa sposare il progetto dell'Inter, no, insieme a Sabatini, magari. Io penso innanzitutto che Spalletti un gesto preciso, non una dichiarazione, ma un gesto preciso l'abbia fatto all'inizio della stagione, perché mi risulta che c'era già un'ipotesi di rinnovo contrattuale e lui l'abbia almeno per il momento declinata. E poi penso che Spalletti voglia vincere, penso che la sua sintonia con l'ambiente di Roma sia buona ma non ottima, nel senso che comunque secondo me ci sono delle cose di Roma che nella testa di Spalletti, alcune cose gli piacciono molto, altre che non lo convincono al 100%, e poi magari penso che nella dichiarazione di ieri ci fosse la voglia anche di dare una scossa all'ambiente, magari anche un po' di delusione. Quindi ad oggi non mi sento di dire che sicuramente, se per esempio la Roma dovesse arrivare seconda o terza e non vincere l'Europa League e la Coppa Italia, Spalletti andrà via sicuramente, magari rimarrà, però sicuramente non è un uomo che rimarrà lì a dispetto dei santi. E ripeto, il gesto, l'unica cosa al momento che conta è il fatto che, da quello che mi risulta, insomma, il rinnovo contrattuale gli era stato proposto e lui ha almeno per il momento parcheggiato l'offerta, quindi questo è il punto fondamentale. Ma oggi che voto merita Spalletti, direttore? Per questo, i primi 4 mesi di stagione 5, direi 5. Tutti dicono che la Roma è, diciamo, dopo la Juventus è la squadra più forte, eppure a 7 punti della Juventus, con 2 punti più appena sul Milan, che secondo me potenzialmente vale meno ancora della Roma, un punto in più della Lazio che vale discretamente meno della Roma, e poi pesa sul bilancio complessivo l'eliminazione della Champions League. Cioè, noi non possiamo estranearci da questo dato. Cioè, la Roma è uscita dalla Champions League e con un danno economico e tecnico, e paradossalmente non le ha neanche capitalizzato dal punto di vista dei risultati, perché poi in questi 4 mesi si è confrontata appunto contro l'Astra Giurgiu, mentre magari la Juventus giocava con squadre di Champions, il Napoli giocava con squadre di Champions, eppure questo vantaggio di avere impegni minori non è che l'ha capitalizzato. Ha un punto più del Napoli, che ha giocato la Champions League senza Milik. Francamente, se do più di 5 a Spalletti, allora Sarri quanto bisogna dare? Ma io gli do 8 a Sarri, eh. Io 8 a 5 non mi convince, scusate, perché insomma, il Napoli non è inferiore alla Roma. Per questo dico no, però è vero il discorso del direttore sul fatto che certamente l'Europa League non è la Champions League, soprattutto nella prima fase, quindi qualche punto in più era lecito aspettarselo. La Roma fuori casa ha fatto parecchia fatica, e poi sicuramente, insomma, sai, il playoff di Champions è una cosa talmente grande, talmente importante, che insomma, per rimarginare e controbilanciare l'effetto di quella delusione devi, non lo so, vincere l'Europa League o quantomeno arrivarci molto vicino, devi fare un piazzamento in campionato di un certo tipo, perché è ovvio che è una cosa che anche dal punto di vista della prospettiva economica del club, oltre ovviamente che della soddisfazione di allenatore, giocatori e tifosi, pesa tantissimo. Sì, anche se noi una settimana fa eravamo qui a celebrare la Roma come seconda forza, aveva appena battuto il Milan, era la vigilia di Juve-Roma, calcio liquido. Poi insomma, però non è che dopo Roma-Milan l'avessimo celebrata molto, perché quella non è stata esattamente una grande partita. La Roma qualche scampolo importante l'ha costruito e ce l'ha, soprattutto all'Olimpico, nella rinascita di Dzeko. Secondo me, io do 6 a Spalletti, tanto per essere chiari, nella rinascita di Spalletti, di Dzeko, c'è sicuramente molto di Spalletti quest'anno, però è vero pure che alla fine la Roma vive la stessa situazione del Napoli, cioè la frustrazione di essere lì comunque distante dalla vetta, con una sorta ormai quasi di rassegnazione, e però non ha nemmeno la finestra europea, perché il Napoli invece ha questo scenario che gli dà forza. Sì, all'idea di andare a Madrid. Non ha né la prospettiva di giocare comunque in un ottavo di finale a Madrid, e poi può non pesare sul fatto che il sostituto di Higuaín, per cui quello che doveva essere comunque un giocatore centrale, diciamo, nel progetto del Napoli, che è venuto a mancare praticamente a ottobre, subito all'inizio della stagione. Allora, nella difficoltà di giocare le partite di Champions League, di guadagnarsi da Madrid senza il centravanti, che tra l'altro era partito molto bene, e il Napoli è riuscito comunque, ripeto, andare avanti in Champions League e rimanere agganciato alla Roma in campionato. A me francamente sembra che Sarri abbia fatto piuttosto meglio di Spalletti. Sì, grazie direttore. A voi, buona giornata a tutti. Grazie Alessandro Vocalelli, c'è chi ti risponde non è il calcio liquido ma è la Roma liquida. C'è anche chi dice implode come sempre dopo le sconfitte con la Juve, e Napoli, questo è un limite anche ambientale. 20 giorni fa era in crisi e oggi la squadra gioca il più bel calcio d'Italia. Che la Roma non abbia la forza e la solidità mentale della Juve è evidente, e ribadisco, tante volte secondo me Roma e Napoli abbagliano per la loro bellezza, ma l'efficacia è una categoria completamente diversa che qualche volta non c'entra niente con la bellezza. Quindi la Juve è vero che gioca, avrà giocato 3-4 belle partite dall'inizio dell'anno, non di più, però è in testa a tutto e meritatamente in testa a tutto. Quindi la capacità di vincere anche le partite appunto sporche, brutte, quelle dove fai un po' di fatica, è la capacità delle grandi squadre. La Juve ce l'ha, Roma e Napoli un po' meno. Va bene, abbiamo il traffico, c'è già Luca da Napoli, 800 24 00 24. Dopo il traffico diamo due notizie sul Milan, tra mercato, rinnovi, un po' di confusione che si sta facendo, e poi vi diciamo anche qualcosa sul Pisa, che ieri abbiamo fatto l'appello, se qualcuno può salvi il Pisa, c'è qualche novità. Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 00 24. Luca da Napoli. Luca. Bene, grazie di avermi invitato. Allora, niente, io volevo garbatamente contestare la presentazione dell'annata della Roma dell'anno scorso rispetto a quest'anno. Sì. L'anno scorso io vedevo una squadra a Roma che in moltissime partite era allo sbando. Mi ricordo un Roma-Milan o un Milan-Roma, ora non ricordo con precisione, in cui ci sono 30 minuti veramente di grande disagio, in cui la Roma non ci stava completamente. Roma-Milan, l'ultima. Quindi, sì. Spalletti non è venuto a dicembre, ma è venuto a fine gennaio. E poi non ci ricordiamo, non ci dimentichiamo come la Roma si qualificò al secondo turno. Si qualificò grazie all'altra squadra dello stesso gruppo, che non riuscì a fare il risultato, perché la Roma pareggiò e fece un pareggio sì, abbastanza col Bate Borisov 0-0 in casa. No, ma io sono d'accordissimo, non c'è partita triste. Fra lo Spalletti di quest'anno e il Garcia dell'anno scorso, visto che è passato più o meno lo stesso periodo di tempo, non c'è partita a favore di Spalletti, su questo non c'è discussione. Però proprio perché c'era stata una parte positiva, molto positiva, della seconda metà della stagione di Spalletti lo scorso anno, era lecito aspettarsi qualcosa di più, e da questo punto di vista secondo me ha ragione Vocalelli. Poi 5, ripeto, secondo me è un voto basso, però più di 6 faccio fatica a darlo a Spalletti per quello che ha dato. Sono d'accordo che ci sia una prospettiva migliore e diversa rispetto a un anno fa, su questo non ci sono dubbi. Infatti io penso che oggi per la Roma mettersi a discutere Spalletti, magari perché ha magari anche sbagliato a mettere Gerson in campo l'altro giorno, oppure come perché ha sbagliato col Porto con Paredes, che non era pronto per quel tipo di ragazzi, partita. Col Porto la Roma ha avuto 3 espulsioni in 180 minuti, e la colpa la possiamo dare sicuramente a Spalletti, perché però insomma io credo che siano successe delle cose in quelle due partite proprio a livello di ingenuità individuali. Poi lo diciamo sempre, l'allenatore è la sintesi tecnica, quindi poi se le cose non vanno la colpa è dell'allenatore, se le cose vanno il merito è dell'allenatore, quindi sarà anche colpa sua. Però sicuramente Roma-Porto è una partita, un'occasione buttata al vento in maniera clamorosa con 3 espulsi, cioè proprio è il tafazzismo fatto sfida di Champions. Carmelo dalla provincia di Bergamo. C'è grande dibattito, scusami sì. Carmelo, arrivo subito da te. C'è grande dibattito sul discorso di Doha, a Bologna ci dicono che da anni il Palazzo dello Sport si chiama Pala Unipol, Raffaele da Pistoia invece dice che la partita non va fatta lì, che ha la mappa dei fusi orari, anzi non ha la mappa dei fusi orari, ma anche in TV sicuramente il prime time che manca è un'occasione persa, quindi insomma è contrario all'idea di giocare a Doha. Sì, giocano alle 17:30 ora italiana. Esatto, che non è il massimo. No, non è il massimo, però anche su questo, insomma, noi dobbiamo anche abituarci nelle prossime giornate, a gennaio, quando si riparte, ad esempio c'è finalmente in Serie A qualche big che comincerà a giocare di più alle 12.30, che è la finestra che agli italiani non piace, anche se in realtà i dati allo stadio dicono il contrario. Ma guarda, gli italiani piace però insomma, bisogna abituarsi. O ragazzi, tu, noi abbiamo, o tu ti rendi visibile. No, l'ascoltatore ha ragione, nel senso che dal punto di vista della RAI, immagino, adesso non voglio fare il dirigente della RAI, ci mancherebbe altro, non è neanche la mia azienda. È chiaro che però, insomma, è ovvio, una partita alle 20.45 sarebbe stata sicuramente più attraente, ma credo che qui l'aspetto economico legato all'ingaggio che gli sponsor pagano per far giocare la Supercoppa italiana a Doha sia compensi in maniera più che proporzionale il piccolo disagio. Poi è ovvio che i dirigenti della RAI, se potessero scegliere, farebbero sempre un bel 20.45 come qualsiasi dirigente televisivo. Lo spezzatino che c'è in Spagna, no? Sì, a me 10 partite in 9, 8 quasi non orari. Dispiace, per esempio, secondo me è abbastanza assurdo, lo diceva proprio il presidente della Lega Spagnola, che in Italia non si giochi regolarmente la domenica alle 18. Le 18 sono un orario fantastico della domenica, no? Quella fase lì nella quale stai guardando Premium Serie A o piuttosto certo. che Sky Calcio Show, ci sono le interviste, però alle 18 la partita ci sta. E poi ripeto, noi aspettiamo i derby di Milano alle 12.30, Juve-Roma, Roma-Juve, Milan-Juve, tutto aspettiamo alle 12.30, perché è la strada che devi imboccare per poter fare il salto di qualità. Ci arriverà anche la Champions, l'abbiamo detto, dopo il 2021 può essere che la Champions si sposti nei fine settimana e giochi in orari pomeridiani. E comunque già nel progetto appetibili. Nuovo della Champions ci sono i due orari, 19 e 21.05, esattamente come l'Europa League di oggi. Insomma, come l'Europa League. Io credo che poi ci sarà anche un po' di indigestione di partite, su questo non c'è dubbio. Però penso pure che il fatto di giocare tanto in orari diversi non è che lo fanno degli sfigati, lo fanno in questo momento, lo cercano di fare i modelli vincenti nel calcio europeo. E non è che in Inghilterra o in Spagna la gente non va allo stadio perché in Spagna c'è lo spezzatino, in Inghilterra molto meno, però voglio dire, non è quello che crea problemi. Il problema dei nostri stadi è che i nostri stadi spesso fanno schifo, che non ci sono i parcheggi, che ci sono le barriere, che ti impedisce. E quindi la gente non ci va. Carmelo. No, Carmelo è caduto, adesso come è caduto Carmelo? Mi sento in colpa enormemente con Carmelo da Bologna. Carmelo, richiamaci. Anzi, lo richiamiamo noi. È in piedi Gagliani invece. Il mercato del Milan è molto complesso, in questo periodo interinato è difficile gestire due teste, è difficile tutto, perché in questo momento io posso proporre, devo fare una trattativa, devo concluderla, quando l'ho conclusa devo chiedere l'autore, è già, il mercato è fatto di rapidità, tu non puoi fare nulla perché devi fare una trattativa e tutti lo sanno, poi quando l'hai conclusa devi chiedere l'autorizzazione. Questo però deve avvenire come seconda mossa, perché chiudendo il mercato a zero bisogna prima vendere e poi comprare, per cui cosa succede a gennaio francamente non lo so. Questo Gagliani ieri, io ti posso dire, carissimo Pier, che il rinnovo di Bonaventura alla fine lo accettano i cinesi, è solo una questione tecnica, ma alla fine verrà fatto, mentre ad esempio altri rinnovi, non stiamo parlando di Donnarumma, ma ad esempio il caso di Paletta, non verranno accettati perché ritenuti non strategici, e non soltanto per una questione economica. Così come è vero, come oggi viene scritto, che i cinesi si pagheranno anche le perdite del Milan a partire dal 1 luglio, stiamo parlando comunque di 50-60 milioni, perché il Milan oggi è una macchina che costa tanto, 8-9 milioni al mese. Ed è anche questo il motivo per cui Fininvest la sta lasciando. È una macchina, si sa, che potenzialmente, se torna a funzionare, può rendere tanto, perché insomma il brand Milan è un brand enorme da questo punto di vista. Insomma, è chiaro che i grandi club hanno un valore, un po' il discorso che facevamo prima su Doha, no? A Doha tirano su una città nuova in 6 mesi, ma probabilmente non bastano 10 anni o 20 anni per creare una generazione di calciatori realmente bravi, eccetera. Perché la tradizione, la cultura, l'abitudine, la tradizione è una cosa che ci vogliono anni, ci vogliono decenni. Momento più atteso della settimana. La schedina di Pierluigi Parma. Allora, Capuano si è vantato, devo dire, in maniera anche abbastanza scomposta. Beh, senti la musichetta, sì. No, sì. Scomposta, no, ho fatto la prima volta la schedina, ho fatto 8. Ma ieri hai aperto il programma con sta roba qua. No, io sono contento, hai fatto un ottimo 8, io ho fatto 6, sì. Cadendo su un paio di ingenuità, oltre che sul finale pazzesco di Genoa-Palermo. Ti do una buona notizia. Vai. Facciamo la schedina solo con 8 partite, perché certo. Juve-Milan giocano a febbraio, quindi dai. Se fai 6 questa volta vai bene. Ma che cos'è? Ma è... De Luca, ma vieni qua, vieni De Luca, vieni pronte qua. A segnare. Dacci un paio di mazziate. Atalanta-Empoli, questa sera, ore 20.45. 1. Inter Lazio 2, Cagliari-Sassuolo. Queste sono le partite di X. Giovedì. X. Fiorentina-Napoli. 2. Palermo-Pescara. 1. Roma-Chievo. 1 con fatica. Però non si può mettere la doppia, eh? No. 1. 1. Sampdoria-Udinese. Well, non si può fare over, eh? No, bello over come ai tempi d'oro. E facciamo Sampdoria, la sbaglio sempre. Sampdoria Udinese. La Sampdoria la sbaglio sempre. Perché? Del Neri sta andando. Del Neri con il suo passato, anche Guagliarella con il suo passato. C'ho anche a Fantacalcio Guagliarella. Sì, però devi dirmi Sampdoria Udinese. Ma devi stare calmo, però un attimo più tranquillo. Sono molto indeciso fra 1 e X. Diciamo 1, diciamo va. 1. Allora, Sampdoria Udinese 1, segnare. E poi Torino-Genoa. 1. Vuoi aggiungere anche Juve-Milan? Mettiamo dentro? Juve-Milan a venerdì. Juve-Milan vince la Juve di misura. 1, quindi. Ma stai calmo, sì, sì, sì. Mamma mia, sembra... Juve-Milan 1. Sembra, con tutto il rispetto, uno di Equitalia. Insomma, voglio dire, c'è uno che sta lì alla porta che ti bussa. Sì. Stai, falla tu adesso. E dopo no, il GR... tra l'altro la fai tu, GR. Poi sapendo i miei, sì. Giocando di... Beh, che schifo. Dopo il GR torniamo. Tra l'altro, notizia dell'ultima ora. Formula 1 ha trovato l'accordo tra Massa e la Williams. Quindi niente ritiro, manca solo l'annuncio. Sai con chi ne parliamo dopo? Non lo so, ti col dico grande anche, Leo Turrini. Ti dico anche però che parleremo con Gigione da Tome fra qualche sì. minuto, mi ha scritto adesso, e cercheremo di capire un po' il clima che c'è a Istanbul. Immagino che lui continui a fare una vita normale, però insomma sono state settimane complicate in Turchia con l'attentato dei giorni scorsi fuori dallo stadio Beşiktaş e con l'uccisione dell'ambasciatore russo ieri. Torniamo dopo il GR. Tutti convocati. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. State ascoltando un programma offerto da... Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Tutti convocati. Allora, notizie buone sul Pisa, che ci chiede Simone scrivendo al 349-238-6666. Io leggo perché non mi fido più, Leggo dal Tirreno, edizione pisana, c'è l'accordo totale sulla cessione del Pisa. I Petroni hanno accettato la proposta irrevocabile dei Corrado. Il 22 dicembre si va dal notaio, ci andiamo tutti dal notaio. Andiamo. Io vado a Firenze a fare Fiorentina-Napoli, quindi volendo faccio. Puoi passare da Pisa. Da notaio. Noi salutiamo Andrea Bode, che abbiamo cercato di contattare, che si sta spendendo. Sì, ne sì, abbiamo sì. parlato anche ieri, no? Gli abbiamo chiesto di intervenire. Lui, giustamente, secondo me, scrive: manca ancora qualcosa. Preferirei aspettare il closing anche per evitare, insomma, per evitare cattive sorprese. Mi sembra sano, mi sembra giusto. Io credo che l'hai sottolineato anche tu ieri. Per come vedo questa vicenda da fuori, Abodi abbia, sì, probabilmente, come diceva quel tifoso del Livorno, ha un po' strecciato, no, i criteri per cercare di salvare il Pisa. Però io dico la verità, questo è sano, no? Nel senso che lui ha cercato, come commissioner della Serie B, di essere fedele a quello che è l'aspetto più importante, cioè il rispetto del campo. Il Pisa se l'è guadagnata sul campo, la Serie B. I problemi sono importanti, sono enormi, però insomma è sempre auspicabile un pochino di pazienza per risolvere i problemi burocratici a vantaggio invece dell'aspetto sportivo, tecnico, che c'è un'intera città che sa quella Serie B l'aveva conquistata sul campo e voleva e vuole vivere questo campionato più o meno regolarmente. Quindi io nel comportamento di Abodi francamente ci vedo buona fede e ci vedo un atteggiamento positivo. Poi ci sono le regole, ci sono i controlli, ci sono vicende anche di un passato recente come quelle del Parma che devono aver insegnato qualcosa. Molte regole stanno cambiando, le hanno scritte, noi ne parliamo anche nel corso delle vacanze, avremo anche un confronto con il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, che allora si trovò a gestire insieme alla Lega Calcio il caso del Parma. Però insomma noi siamo qui per sperare che la vicenda del Pisa sia una vicenda che si conclude in maniera positiva. Se mi mettete la musichetta vi do la mia schedina. Oddio, guarda. Arriva, eh? Sguardo luciferino, eh? Allora, devo dirti che... Vabbè, adesso la fai, anche, adesso giochi... Anche questa settimana... No, l'avevo già scritta. Adesso guarda, giochi a scopa sulla mia. L'avevo vediamo, già scritta, vediamo, era vediamo, mia, vediamo, era scritta da dai, prima. Atalanta-Empoli. Allora, Atalanta-Empoli 1. Okay. Inter-Lazio, che se non sbaglio tu hai dato 2, giusto? 1. Sì. 1. Cagliari-Sassuolo 2. A questo punto direi che il pareggio è scritto. Cagliari-Sassuolo 2, ok, io ho dato X. Fiorentina-Napoli X. Io ho dato 2, bene. Prendete nota, eh. Palermo-Pescara 1. Sì. Roma-Chievo 1. Sì. Sampdoria-Udinese X. Calla, che la frega. Toro-Genoa 1. Sì. E poi Juve-Milan, dico anch'io, la vittoria... della Juve. Quindi uno. Beh, avete preso nota, quindi Juve, sa Milan. Dico io stavolta, uno. Sa che dico io. Sassuolo, chi è che manca? Ho dimenticato qualcosa. E le chiami buone notizie Cagliari, questo Sassuolo, ci scrive. Due. E le chiami, sì. Le chiami buone notizie queste ci dice Andrea da Livorno, scherzo forza Pisa, credo, ma insomma. Ci mancherebbe altro, no? Oh, allora vi faccio sentire due tapiri. Il primo tapiro d'oro a Federica Pellegrini. Cos'è successo? Ce lo racconti? Ma mi ha lasciato quel ragazzo così, come mai? Sono cose che non si possono dire. Ma le dica pure, siamo qua tra pochi minuti, non ci vede nessuno, guardi. Grazie del tapiro, ma non si può. Ma è finita davvero? Mi fa sempre piacere vederti comunque. Ho finito davvero questa storia? Non si sa, non si sa. Ma come, eravate una bella coppietta, insieme vi ho dato un sacco di tapiri, già pensavo io ai piccoli delfini che venivano dietro da voi in vasca. E invece... Basta. Ah, chi lo sa, magari. Ma c'è un altro pesce cane in vasca? No, no. Secondo tapirone se lo sono mangiati io. No, Staffelli è veramente figo. Io, anzi, lo rinvito ancora, poi me lo scordo. Sì. Poi lui sta sempre in giro. È venuto l'anno scorso a Tikitaka, lo rinvito. Anzi, chiamiamolo qua. Ogni tanto. Chiamiamolo al telefono, Staffelli. Io credo sia tifoso del Milan. Grande, che scherzi. Chiamiamo Staffelli, ragazzi. Dai, lo chiamiamo vediamo domani se... o dopodomani. Lo chiamiamo. Ma dai, chiamiamolo adesso. Vediamo se stai in appostamento da qualche parte. È arrivato anche la Mascolo. Ma dove vai? Allora, adesso Mascolo. Chiamiamo Staffelli. No, mi fate sentire il secondo tapirone che si è mangiato ieri a Maranello. È stato un grandissimo bagno d'umiltà. Abbiamo cominciato a lavorare sulla macchina 17 con questo senso di responsabilità verso i tifosi, che è estremamente importante. Vediamo dove ci porta. Il lavoro è stato fatto. Era Marchionne, carissimo Leo Turrini, ciao. Dove andiamo? Tutto bene? Ma c'è Pardo in diretta? Come stai, Turrinone? Come stai, Turrinone? Allora, ieri ero a tavola di fianco Marchionne, sì. No? È il pranzo di Natale, che è una vecchia tradizione di Enzo Ferrari, mantenuta da Montezemolo e poi conservata anche da Sergione. E io a un certo punto mi sono accorto che nel menù mancava clamorosamente il lambrusco, come direbbero Pardo e Nosotti, e allora andato da Sergione con Seisao Marchionne e gli ho detto: ma mi scusi, va bene avere abolito le vittorie, ma anche il lambrusco è un po' troppo, eh? Hai fatto bene Leo, perché tu sai, noi modenesi lo sai benissimo, però il lambrusco è una bevanda sacra, è come fosse il nettare degli dei fra Sassuolo, Formigine, Porretta Terme, cosa che c'è? Si è messo a ridere Marchionne, mi ha detto: lei è come sempre perfettamente ragione, l'anno prossimo le prometto che il lambrusco ci sarà di nuovo, le vittorie della Ferrari non lo so. Perché poi in realtà ieri è stata una cosa all'insegna, diciamo così, della cautela, della prudenza, voliamo bassi, tra l'altro off the records, come dice l'amministratore delegato Fiat Chrysler. Lui ha rovesciato il Mourinho appena arrivato all'Inter, perché quando io gli ho chiesto: ma lei insomma come si sente a fronte di milioni di ferraristi dopo aver detto 12 mesi fa che avremmo vissuto un'annata come fa? E lui mi ha risposto: sono stato un pirla. Hai capito? Mi ricordo che Mourinho disse: io non sono un pirla. Sì. E invece lui ha avuto, Marchionne, la forza d'animo di dire: sono stato un pirla. Detto questo, prima ma io non sono pirla. Scusatemi, ma è Natale, io passo da un pranzo all'altro, ero con Di Francesco fino a mezz'ora fa. Avete detto Cagliari Sassuolo, non ho capito, tornate a dire. Lui ha detto 2, io ho detto X. Lui. Ci mancano 12-13 giocatori, ma come direbbe Nosotti, che era il portiere nero verde ai tempi in cui eravamo in Serie D, dobbiamo espugnare il Santelì, assolutamente, cari amici. L'ho visto l'altro giorno, non l'ho visto male, ho visto la catena lì destra, la catena lì sinistra, ho visto quel Ragusa lì, quell'Irola, quel Pollirola, quel ragazzo che ha fatto i movimenti, li ha fatti anche bene, li ha fatti, il Sassol, come si dice? Ma scusa, Pardo, tu che interpreti Nosotti, ma Berardi quando torna, dimmelo tu. Guarda, l'altro giorno visto, Sta chiedendo a Nosotti. E mentre stavo lì, l'ho visto Mimmo, c'era anche la Sciarelli vicino, chi l'ha visto? No, lo salutiamo Berardi, che è uno degli, in effetti, degli infortuni più misteriosi e più incredibili, ed è anche uno degli infortuni più pesanti. Guarda, sono due misteri qui dove vivo io, sì. Uno è come mai la Ferrari non vince più, e dopo se volete vi spiego. Ma lì è abbastanza facile, dai. Vabbè, su. E l'altro è che fine ha fatto Berardi, che sembra fermo sulla Pero Cormano, ci sono le code dovute all'Expo, e c'è Berardi lì. L'Expo è finito un anno fa, amico mio. Io non lo so. Senti, ma Reggiana Parma l'hai vista? Una cosa spettacolare, 17.000 spettatori. Sì, tu magari... guardo, fai tic tac e racconti la Serie A che si gioca in stadi deserti, tolto il Juventus Stadium, blessi da A alla Z, e quando c'è un grande evento con popolo vero, come avrebbe detto Guareschi, capito? Ma io sarei Camillo Pardo, dov'è? Tu sei uno da salotti, Pardo. Ma che da salotti? Ma guarda, io partite vere, c'era il Loso, io ero c'era il Loso. Buon Natale, sei il numero uno, meraviglioso, però tu dove c'è la vita vera non ci sei. Che se fanno, se la fanno il lunedì, c'è la Parma, che devo fare? Sposto di chitarra. Che fai lunedì? Lo fai lì. Quanti velina delle tue, e vieni dalle mie parti, ti faccio anche mangiare un culatello. Ma tu sei un Arzan, no? Tu sei un modenese, no? Ma siamo comunque sempre in territorio, capito? Perché nel giro di una ventina di minuti noi ti portiamo anche allo stadio per Reggiana Parma. E poi c'è il ristorante più amato da Gino Cervi e Fernandel, che erano, diciamo così, Nosotti e Pardo 50 anni fa al cinema, no? E la Zaira. Dove ci sono i più buoni culatelli di tutta Italia. Però Pardo non c'è mai, perché Pardo è solo Salotti Romani. Senti, Salotti Romani, aspetta, Gian Bardella, mangia il bucatino. La versione la reale di Gian Bardella nella grande bellezza del salto. Ma come io ti voglio bene, sei un mito, bravo. Aspettate, perché poi ma sai che siccome devo andare a Firenze, adesso che mi hai detto cosa della Zaira, ma tu devi passare prima a Pisa per andare a Firenze. Non cominciamo a fare scherzi. Sono già sul sito dell'Enoteca La Zaira. Sì, ecco, che ringrazia. Sì, adesso... Leo, ci chiedono, insomma, se ci dici due cose sul rientro di Massa, che si è ritirato per finta. Guarda, questo è una storia bellissima, perché è il più breve addio all time. Io direi premio Donald Trump, premio The Donald della Formula 1, l'impresa più sbalorditiva, perché Massa 20 giorni fa a Abu Dhabi, con un grande party che aveva già anticipato la penultima tappa di Interlagos, la sua, certamente eravamo io, Sotomayor, Gianni Minà, Pardo, tutti, Edoardo Calcutta, Edoardo Galeano, Soriare. Scusa, chiamate subito il Noso, che mi manda un WhatsApp dicendo: sento tutto, chiamate immediatamente il Noso. Io intanto sono sul sito di quel ristorante che di cui non ricordo più il nome, perché sennò veramente. Voglio andare avanti su Massa. Si è ritirato 20 giorni fa. Grazie, è stato bellissimo. La mia vita cambia, volto pagina finalmente. Esattamente, settimane dopo, nemmeno è stata disputata una gara con Massa ritirato, rieccolo, come si diceva di Fanfari. Quindi vorrei dire agli italiani in coda sulla Pero Cormano, pronti a dire: ma qui torna Renzi, ma non preoccupatevi, è tornato Renzi, abbiate pazienza. Senti, ci vediamo il 23 a pranzo in quel posto lì? No, questa storia di Massa è che io ho mangiato dalla Zaira con Massa, perché contrariamente a Pardo, Massa è una persona seria, è venuto a mangiare il culatello con me, Lambrusco, eccetera. Però devo dire, qui ha sbalordito persino me, cioè almeno su Massa stette fermo 3 anni, hai capito, no? Ecco. Noso, facciamo Noso, facciamo pranzo nel ristorante il 23, Leo, nel ristorante dove Leo, che non nominiamo più, sì, chiaramente ha delle quote azionarie, perché l'ho nominato 6 volte, quindi comincia a... No, è mio, sono io il proprietario. Sei tu il proprietario, però, vecchio Noso. Però buonasera. Ti ascolto, sì. attenzione come parli, ma vedo che sei molto meglio di me. Anche come uomo, quando mi imiti, sei molto meglio. Dentro e fuori, devo dire. Bravo, bravo. Che partita fai, Noso? Che contributo. Atalanta, Atalanta-Empoli. Sto arrivando allo stadio azzurri d'Italia. Vado a vedere la meglio gioventù. Beh, tanta roba, eh? Tanta roba. Partita proprio da amatori. Partita perfetta per Ventura, dai. E per i talent scout di tutta Italia. Grande, grande curiosità. Se non ci fossero temperature meno 27 gradi, verrei volentieri stasera. Ma vabbè, allora dai, organizziamo questo pranzo il 23. Allora, con Leo Turrini. Il pranzo 23, paga Leo Turrini. No, devo dire una cosa. Che Pardo dica che Atalanta-Empoli è una partita da amatori, e infatti ci vanno Zotti, è l'ultimo insulto, l'ultimo sfrido, come dire, ciclo amatori, calcio amatori, capito? Ma insomma, Pardo, un po' di rispetto, lo so, tu eri il portiere di riserva del Sassuolo in quarta serie, e vorrei segnalare la tua attenzione di grandissimo commentatore, che lo so, fino a Sassuolo 0 Inter 7 di Serie A, deteneva lo storico record di reti incassate a domicilio. Un torneo Beretti, Nosotti tra i pali, ne prendemmo 6 dalla Mirandolese o non so chi, hai capito? 6 dal Parma, 7 dal Parma. Ecco, sbucavano da tutte le parti e il vecchio Noso, io ero fare il cronista all'epoca, Nosotti fece 2 uscite a vuoto che Buffon non le fa, perché Buffon, voi non lo dite, ma non esce più da circa 10 anni. Se voi mi citate una partita della quale Gigi Buffon è uscito fuori dall'area piccola, io vi pago, non al ristorante che non volete che nomini, da bottura, vi offro la cena a tutti, mi fate vedere l'uscita di Buffon sui 12 metri dalla porta, visto che l'area è 16 metri, io vi porto dal mio amico Bottura e vi faccio mangiare come non avete mai mangiato in vita vostra, e pago io per tutti. Cerchiamo l'immagine con Giorgio De Luca. Anche se io sono davanti il menù di quell'altro ristorante, ti dico soltanto passatelli asciutti con tartufo nero estivo. Oppure vogliamo andare sui rigatoni con zucca violina e guanciale di maiale di razza Moro Romagnola? Il caro Pardo, che è un uomo sobrio, perché tutti la vedono e dicono: questo Pardo chiaramente è espressione della cultura ascetica applicata al giornalismo. No, non dicono questa cosa. Guardi, ascetico, di ascetico non c'ho proprio nulla. No, lei Pardo è un inno alla sobrietà, come Nosotti peraltro. Sì. Siete affilati. Posso congedarvi? Sì, è meglio. Ci congediamo. Ciao Leo, io vi voglio un bene dell'anima. Ma anch'io, anche io, come io, buon Natale. L'avete licenziato? Perché non c'è? La gente oggi è vacanza. Come tutti i VIP. Al martedì, stai in vacanza martedì. Beh, martedì, è ma vero. Tu non hai mai fatto la corta facendo il giornalista, no? Ah, ho capito, ma io non faccio il giornalista, faccio il comico. Non posso sapere queste cose. Leo, la nostra vita è tutta una corta, diciamo la verità. No, e quindi ciao Leo. Ma da Tome non risponde? Che fa da Tome? No, richiamiamo da Tome. Salutiamo anche Marco Nosotti. Ciao Marco, quello vero. Vecchio Noso. Ne approfitto per fare gli auguri a tutti. Buon Natale. E il calcio, ricordate, è speranza, perché all'inizio non sai mai che cosa succede. Come col matrimonio, assolutamente. Grazie Marco, siamo tutti più ricchi adesso. Guarda che il Noso è numero uno. Fatemi sentire Pioli e Simone Inzaghi, che domani c'è Inter-Lazio. Partita molto molto molto importante, perché la Lazio sta davanti a noi, in questo momento sta giocando un ottimo calcio, ma sarà un avversario difficile, è occupata la terza posizione in classifica, quindi abbiamo voglia di continuare, abbiamo voglia di accorciare la classifica, sarà un impegno difficile, però siamo l'Inter, giochiamo in casa e proveremo a vincere. Noi siamo partiti bene, adesso manca l'ultima partita con l'Inter per chiudere l'anno, poi alla ripresa ci sarà il cortone, mancano ancora 2 partite, stiamo facendo un buon lavoro, però dobbiamo proseguire, siamo in una buona posizione di classifica, ma come ho detto il difficile viene adesso, perché insomma dobbiamo cercare di rimanere lassù, di confermarci, di poter interpretare ogni partita nel migliore dei modi. Io ho abbastanza l'impressione, la giro a Ciccio Colonnese, che saluto, ciao Ciccio. Buongiorno, buon pomeriggio a voi. Ciao. Che domani sera la squadra che ha più da guadagnare in assoluto sia l'Inter, e che se scavalla questa partita con la Lazio, io non so perché, ma ho come l'impressione che possiamo poi raccontare un 2017 particolare, perché se poi a Roma entrano nel loop dell'allenatore che vuole andare, insomma, magari questa parte qui di classifica ci regala una seconda parte di stagione interessante, dove ci sta dentro anche l'Inter. Ciccio, non so come la pensi te. È vero, perché l'Inter è staccata, quindi è l'ultimo treno utile in questo momento per cercare di riattaccare, diciamo, le squadre davanti a sé, perché la Fiorentina ormai è dietro, l'Atalanta insomma è una squadra che sta facendo bene, però insomma è una squadra che l'Inter sa di poterla diciamo arrivarci sopra. La Lazio invece è un test, insomma, importante, perché c'è un distacco importante da cercare di accorciare, e quindi sicuramente l'Inter ha tutto da ha solo un risultato, che è quello della vittoria, mentre la Lazio può giocare per due risultati. Sì, direi di sì. Io credo che la Lazio sia più squadra e complessivamente, secondo me, ha più qualità. Però c'è anche l'Inter... chi ha scritto arriva terza, eh? C'è anche chi ha scritto tre messaggi arriva terza, ragazzi, la Lazio, che è quello che dici tu dall'inizio. Lo dico da quest'estate, era una buona squadra, poi ha trovato l'attaccante, anche se adesso è un po' che non segna, Immobile, ma ha una solidità e una compattezza che secondo me hanno in poche altre. Poi secondo me Juve, Napoli e Roma hanno qualcosa in più. E l'Inter e il Milan possono anche arrivare avanti, quindi insomma anche la Lazio, io credo che Inter e Lazio siano due squadre che dovrebbero arrivare fra il quarto e il sesto posto, però io penso che la Lazio abbia qualcosa in più in questo momento. La Lazio ha sicuramente qualcosa in più, però in questo momento, se veramente vuole rimanere e lottare per i primi tre posti, deve fare qualcosa in più, perché insomma la Lazio ha perso, le tre partite che ha perso sono state con Juve, Milan e Roma, le tre squadre che sono, vero, diciamo, quelle. Quindi se vuoi cercare di lottare davvero per i primi tre posti, non devi perdere la stagione, altrimenti, come dicevi giustamente te, gioca per il quarto e il sesto. Se vuoi lottare per i primi tre, non devi perdere, altrimenti sei nel calderone delle squadre che poi lottano per l'Europa League. E d'altro canto invece l'Inter deve soltanto vincere, perché non ha altre chance, perché è vero che mancano tante partite, tutto quello che diciamo, ma se vuoi accorciare con una diretta avversaria gli scontri diretti devi vincerli, sennò i sette punti di distacco cioè, diventa difficile recuperarli, poi gli scontri diretti della possibilità di accorciare subito. Certo, o li prendi adesso o non li prendi più. Grazie Ciccio. Grazie a voi. Abbiamo in arrivo Gigione da Tome, che si sta, credo, allenando a Istanbul. Proprio un flash con lui. Intanto che lo agganciamo, diciamo a Gianluca da Torino che se vuole trovare i nostri pronostici basta che va su Twitter. Chiocciola, tutti i convocati sono stati riportati, tutti quelli di Pierluigi Pardo, se volete tentare. Sta diventando più importante nel campionato, diciamo. Il campionato gli altri, ha un pretesto per fare questa cosa. Quelli che sono fatti per vincere, non so, per uscirne in maniera più che dignitosa. Vediamo se riusciamo a prenderlo Gigione da Tome. Anche perché insomma io credo che la situazione in Turchia non sia esattamente facilissima. No, non risponde in queste ore, però non risponde, quindi abbastanza ridere, eh? Non prende, che dici De Luca? Non prende. Non prende. De Luca, vieni qua, vieni a fare un saluto, ragazzi. Vieni a fare un saluto, dai, non essere il solito timidone, eh? Non essere il solito timidone, richiamate, è finita. Però mancano 60 secondi al Falco il Gabbiano. Mancano, ragazzi, il Falco il Gabbiano. Dov'è il professor Ruggeri? Dov'è? È là dietro, mi dicono che è là dietro, è pronto, adesso si affaccerà e ci farà anche il suo pronostico per Inter Lazio, probabilmente, non lo so. Abbiamo Gigione? Vabbè, niente. Ci abbiamo provato. Oggi va così con le linee. Lo sentiamo domani, perché insomma comunque sono ore. Sì, abbiamo detto all'inizio anche per quanto riguardava Berlino. Vai, sentiamolo, Gigio. Ciao a tutti. Ciao, eccoci. Abbiamo circa 40 secondi, volevamo abbracciarti e salutarti. Ci racconti la situazione, tu continui la tua vita normale di palestra, allenamenti, immaginiamo, a Istanbul. Sì, tutto, purtroppo non è la prima volta che capita, la gente fa vite tutti i giorni, io personalmente non mi privo di niente, non noto niente diverso, ogni volta è un colpo al cuore quello che succede, ma purtroppo non è un problema della Turchia, anche se sono i paesi più colpiti, abbiamo visto Berlino, Svizzera, quindi è un momento così per tutto il mondo. Però qui, per quello che posso dire io, sto bene, non mi invito a fare niente, vado fuori a cena, faccio le passeggiate, sembra che tutto vada avanti come se niente fosse. Bello, un bel messaggio di normalità. Noi dobbiamo veramente chiudere, poi ci sentiamo con calma, ma torni questi giorni? Dove? Qui a Natale non è sentitissimo. Però ne approfitto, se potete dare a chi ci ascolta un'occhiata alla mia pagina Facebook, perché sto raccogliendo dei fondi per aiutare Cristina, per aiutare a combattere il proprio problema, per mandare in America a ricevere le proprie cure. Quindi fate un favore, se date un qualsiasi somma o la nostra disponibilità per aiutare Cristina. Stravolentieri. Allora, pagina Facebook. Di Gigi D'Atome, ci sentiamo i prossimi giorni. Io ti volevo portare all'isola, lo sai, però vabbè. Sì, no, ma ci andremo presto. Ci andremo per bene. Un abbraccio, buone feste. Un abbraccione a Gigi D'Atome. Allora, noi dobbiamo chiudere. Pier, allora ringraziamo Giorgio De Luca, autore di questa puntata. Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Arriva il Falco e il Gabbiano. Ci sentiamo domani dopo il GR l'Europa delle 14. Per il Gabbiano, io per il Falco, io per il Gabbiano, si vede, c'è proprio la classica faccia a Falco. Io sono invece per il Gabbiano, che vince fuori casa.